quello fischia, sì, ti ho fatto sì. Se non fuccia già va bene. Oggi bambini non ce ne sono in giro, mi ricordo che c'era un sacco di bambini sul sette. Oggi i blondi sono tutti blondati, si sono presi. Vedete, sono tutti chiusi dentro a casa. Beh, secondo me con l'avvento del Covid, sì, molti si sono brondati, magari parlavano anche da palazzo a palazzo, o si facevano la graffetta ai quartieri in certe città. Vedi, fischia, mi sta rompendo le balle, però o lo abbasso, ascolta, abbassato ancora, va a Napoli. No, sta fischiando, comunque non sento fischi, tranquillo. Uiuia. Su sette là, e parla un po', vediamo se arrivi. Abusivo. Abusivo, sì. Se ci metto il blu di qua, wireless. No, arrivi bene, non smittere questo schifo di ricevitore, non... E nessun ricevitore o smitter, soprattutto questi Uniden, non gliene mettono mai smitter, anche per farti contento, una cosa indicativa, nulla, e vabbè. E vabbè, lo deve fare lo smitter, basta che ti senti di audio fuori dallo smitter, proprio non te ne fai nulla. Ma tra l'altro sono andato con Giovanna in quel negozio che c'è, dove c'è la scarpa prima, il negozio di scarpa dietro, hanno fatto, c'è un negozio cinese, sono entrato lì e ho controllato dove c'erano i portatili, c'erano questi blondi piccolini, c'era, 40 euro ne volevano, ha detto vai cocca di tra me, vai, ma piccoli me. Piccolini, i blondi sono stati, come ti posso dire, quante pacco di sigarette? Ma dove sei andato dietro scarpa? Dove c'era il negozio di scarpa, ma per la dieta, te lo ricordi? Dietro, in pratica, dove, dietro al banco, la banca che c'è, in pratica c'è un negozio di cinesi. Ah vabbè, per Daniela stai dicendo, io come scarpa intendevo l'unico vero scarpa, quello che c'era qui, via Prendicelle d'Angolo, via Savoia, lì era, devi vedere il tunnel, quant'era profondo il negozio, sembrava non sommergibile, più largo, proprio andava in fondo, e lì è tutto vuoto, da quando hanno chiuso il negozio è sempre chiuso, e lì sotto cosa ci puoi fare in una cosa che è così stretta e lunga, e poi non è stretta, già è largo, ma cacchio ci puoi fare, perché è un po' incassato, cioè devi scendere in basso un po', devi scendere delle scale per andare al piano, un pub ci fai, qualcosa al chiuso, così addio parcheggi. Ah beh, quello sì, tu gli dicevo quei blondi piccolini, ho detto per carità, ma lo schifo che si è fatto, io non lo so. Adesso quando stare Andrea, giù da cosa da Cagliari, se devi comprare due PMR, mi ha detto, se vuole comprare, ho detto già, ti porto dai cucinesi che ci sono qui a fianco a Città Mercato, ho detto poi te li faccio programmare, così che lui si... che lui lo usare in pratica per parlare con la figlia, capito? Da casa giù a Cagliari parla con la figlia che non so dove abita, mi sembra che è un chilometro da lì, anzi da lui, non da lei. Vabbè, non c'è il telefono, no, per parlare con la figlia. Devo avere per forza blondi, che poi non sono blondi, sono altre cose quelle. Per non usare il telefono, capito? Per parlare con la figlia, se vuole usare poi così, io ho detto che già, quando sale già c'è il porto, gli faccio comprare una copia di quelli di 888 e, o come dovevi chiamare, HM, non mi ricordo come, l'altra marca qual era, sono uguali poi. C'era Giovanna, un paio glielo ho regalati io. di quel portato. Io in pratica avevo sì, avevo già i DV5 V++, poi 2888, poi avevo quelli HM, non mi ricordo, che è la stessa cosa, uguali, identici all'888, sono, e gli ho dato a Giovanna, gli ho detto, mi Giovanna, tu usa su questi, poi adesso appena ti... E tu busco il cavo delle 10.58 per Pietro, non te ne ha pezzo, stai scendo a casa e poi così ti usi il con le 4.000, gli ho detto, a me lo parli anche tu, ma l'attimo non ne hai voglia. Sì, poi ti ho detto, Giovanna ha una bella voce anche in radio, non so bella. Ah, sai com'è, c'è comunque l'apparecchiatura con le 4.000, è una cosa assurda, c'è un'amplificazione allucinante. Ne avevo messo l'M95, figurati, l'avevo comprato da Fusano. E poi abbiamo fatto, mi sembra, intorno ai 30 o 40 euro, non mi ricordo adesso. Sì, ormai i prezzi sono quelli. Comunque questo, l'M95, gli fa le scarpe 100 volte come timbrica, come amplificazione. Tu non contare qua che non posso alzare perché fischia. Molto, molto migliore di timbrica, molto migliore di amplificazione questo qua. Vabbè. Ah, se non vedo il coso, il Sanerta, vedo. C'ho l'MV4 io. E se ne sta vivendo, capito? Nuovo. Qua a casa. Ce l'ho agganciato al tornado, al tornado dal 2009, ce l'ho agganciato quel microfono, l'attacco, quindi ti metto Visa Delta, rimetto e esce bene, io Visa Delta con il 4000, l'alimentatore, poi l'antenna li penserò, adesso vediamo un po', o li metto la boom, se no li metto la BA27L, adesso vediamo un po'. Perché la canale a pesca con questo vento qui mi ha provocato le parti di fronte. Sì, un'antenna compatta, cioè qualcosa che renda però un minimo, cosa si può mettere? Lunghezza, già una mezz'onda è lunga, vero? Vabbè, la mia 27L è lunga, devi tenere presente che devo tenere distanze una dall'altra le antenne, adesso ho la mantova in un fianco, poi dopo 2 metri c'è l'antenna della B-banda, sotto c'ho l'altra antenna grande, la direttiva, proprio nel palo per la questione delle U, a lei bisogna che la metto dall'altra parte del tetto, capito, dalla parte della cameretta dove sono io, per forza devo fare 2 fori e metterla a meno 2 metri di distanza davanti alla TV, se no come parla Barattino c'entra vento nella centralina. Avanti Brecco, chi è? Calabria. Buonasera Calabria, ben ascoltato, Sassari che ti ascolta. Anco la K5 la metti a terme. Ciao K5 la metti a terme, ben ascoltato. Stazione Alessio, la quale Sassari insieme a Marco Condor, sempre la QTH di Sassari. Sassari, Alessio, ok, ti ascolto 9 di segnale, Alessio. Non mi chiamo Aristide, no. Alessio. Sono Aristide, no. Che cazzo, già mi vuoi bene, Aristide. San Marco. Comunque sono contento di aver fatto 9. Già va bene. Sì, dimmi, ti ascolto. Non ho capito, la stazione? Se ho voglia qua. Ieri stavamo morendo di caldo, capito? Eravamo sotto la pompa dell'acqua ieri. Siamo andati ai pompieri e ci siamo fatti la doccia. Perché eravamo 40 gradi qua a Sassari. Quindi figurati tu. Avanti Marco. Alessio stava facendo le pompe a tutti. Sicuro. Cappa, vediamo se l'amico di Lamezia Terme ascolta anche me. Ciao Natali. Qua sto usando la 5 ottavi e i 10 watt dell'apparato. Avanti Lamezia Terme, se mi copi. Cappa, sì, c'è molto QSB. Vediamo se copi anche l'amico Natalino, sempre in Sassari. Natali, vai. No, dai, no. Fateli voi di ex, a me non mi interessano. Scommetto che ti ascolterebbero comunque, io più ho solo l'apparato di 10 watt, di più non posso andare, e poi l'amico sta abbassando il segnale anche. Riprendi cosa? Com'è che Casimiro, come ti chiami? Pomponio? amico della messa a terme, ascolti Sassari ancora. È una propagazione imparziale, capito? Allora già ci sentiamo, adesso per il momento ancora ti sento. Nel caso sparisci, ti saluto già adesso per quello. Male scende la propagazione, c'è un po' di questo invece. Non è stabile, è stabile. Marco, vogliamo provare in FM? Oh, aspetta, la messa FM, in FM puoi passare. Ciao Giulio. Ciao Marco. Ecco, vediamo un po' questa canzone, perché in FM io qua ho 40 watt, 40 circa. Vediamo se mi ascolta meglio l'amico e la messa FM avanti. Prendi la M, prova a fare la prova, poi ripassati la FM. Ok Marco, no, volevo, dammi un rapporto, fare la cortesia Marco, come adesso, e poi quest'altro, ascolta, mi stai seguendo? Sì, così è il più 10. Poi facciamo questo, ma solo per un istante. Vai, ok. Più 30, sto usando il tuo stesso apparato, però quello con il display rosso. Ok, vabbè, io sto usando l'altro, no, volevo solo sapere la differenza, ok, ultima. Guardate un attimo, allora, così sono con i 12 watt, vabbè, no, non contiamo il filtro mi incagliato, così sono 12 dell'apparato. Così potrebbero essere uno o due, io alla verità, alla potenza minima, non ho mai misurato, potrebbero essere uno o due watt. Vedi come sono, così usi, così moduli tu di solito per Sassari, vedi un po', sei male, è molto calato, non giudi? È moltissimo, allora io adesso in questo momento dovrei avere, che so io, 3 watt, 2 watt, 3 watt. Comunque tu sei arrivato, 9,5 e 9 e 20 quasi, sono i due segnali questi in analogico. Sì, però vedi, anche mettendo il minimo si arriva lo stesso, insomma, quando è pulita, oggi è più pulita la frequenza, ho notato, ci sono stazioni che chiamano, però non c'è il QRM terrificante degli altri giorni, e così è bello anche fare un contatto breve, salutare, eccetera, va bene, riprendi Natale. È la mia moglie che stava portando il cane, capito? Mi ha suonato. Perché non si porta né chiave né nulla, la devo aprire io. Tu lasciala fuori. E perché ha detto di lasciarmi fuori? Marco, l'intenzione già c'era. Oh, Natalino già una brava persona, non lo farebbe mai. Marco, io chiederei a te fuori però. Se faccio arrivare mamma già mi chiude fuori, non mi fa più tornare. Minimo. Non so, mi taglia anche fondi. Quello è il peggio. Quello è il trasformolenza, Marco. via. Facciamo girare per aspetta Giulio, Antonello. Antonello, hai visto? Meno male eravamo con i watt normali, però in effetti hai visto massare qualche watt in più dell'apparato e cambia da notte al giorno, capito? Ebbene, FM si esce più forte. Comunque un attimo che devo salutare a Giulio, che non l'ho salutato, non ho avuto l'opportunità di poterlo salutare. Ciao Giulio, ben entrato. Ciao, ciao Natali, ben entrato, saluti in casa anche. Sì Marco, così come adesso invece quant'è il rapporto, scusa, io non ne chiedo mai, ma questa è una prova che voglio fare, dai, che mi interessa. Aspetta che mi ha chiamato mamma, sono qua, dove vengo? Come si chiama? Lo senti? Bernuccia, per andare al cammello ci va, per andare al mercato. Ho sentito benissimo. Volevo dire, Natale, dammelo tu, dai un rapporto di segnale, come adesso, fa la cortesia, così ti lascio la portante senza picche PEP. Vai. 9.10 al 3.009 stai arrivando. Qua 9. Ok, praticamente, vabbè, è come il tuo, dai, mi ha detto Marco, come il tuo, sicché queste sono le watt, io comunque te l'ho dato in analogico, il segnale. Ah, ok, io sto usando proprio lo smitter suo del 5005 che, come sai, vabbè, io dico LED, cristalli liquidi dovrei dire, ma dico LED per fare prima, in realtà non è a LED. Cristalli liquidi e retroilluminato, dai, pannello LCD e retroilluminato. Io gliel'ho dato in analogico, gliel'ho dato a Giulio il controllo, e poi io lo smitter l'avevo tarato come quello del K, capito? Quindi è un po' più tranquillo il segnale. Bianco per me un attimo. Ok, comunque quasi 9.10 per te Natali, quasi 9.10 per te, e io sto usando una minima potenza, infatti mi te lo dimostro che abbasso ancora, ho abbassato ancora Natali, te lo dimostro, adesso mi ha dato 9.10, adesso saranno sì e no, massimo 9, non di più, vai. Sì, sì, Santiago 9, io non posso né salire e né scendere, 4 watt, capito, da questo apparato, questo è il 3009 omologato, capito? Anch'io sto usando 3-4 watt, non di fatto, forse anche di meno, non è da così, non so con esattezza, comunque non più di 4, sicuri, di meno sì, forse la metà anche, addirittura 2, non lo so, come vedi la differenza c'è, no? Da 9-10 adesso sicuramente sarà 9 da dialando. Non lo usare il K con quella potenza, guarda che si rovina, buonasera. E chi ce l'ha il K? Io sto usando il 3009 con 4 watt. Sì, ma Giulio sta usando il K, non ti preoccupare, è troppo bassa la potenza, non lavorano i microprocessori, attenzione. Allora, visto che ci secla, guarda, per un istante ti do un altro segnale, dimmelo o fai la cortesia, ti dico, quando ti dico vai vuol dire che è quello, ok? D'accordo qua? Ma devo parlare io? No, mi dai tu un segnale, quando io ti dico vai vuol dire che mi devi guardare il segnale, fai la cortesia, ok? Vediamo, vai? Questo è 9.10, questo è il tuo segnale col K, ok? Però nel passaggio che hai fatto prima anche S9 va bene, perché S9 vuol dire che stai andando con oltre 5 watt, ma non scendere sotto 5 watt perché non lavorano i microprocessori e rompi tutto. Ok, e dove era solo la prova, stacco e passo in digitale, dai, con segnale digitale. Va bene, io questa radio ce l'ho sempre a 10 watt, modulati sono 20 e la lascio così, mai scendere sotto, se no si fa sciadutto. Dai, vi lascio però, continuate il vostro questio, che io sto facendo cose qua in sala radio, non posso stare, non posso posso stare qua, sto comprando alcune cose che mi servono domani mattina. E niente, dai, sono i Corix comunque, avanti Natali. K Claudio, saluti a te e a Gianfranco da parte di Antonio. Estendili tu a Gianfranco perché non ho avuto modo di sentirlo, capito? Ah, K, sì, io adesso è impegnato, non so se lo stai ascoltando, è impegnato con Gianni Bicue, Gianni Loraro, che stanno facendo delle tarature per questo cazzo di FT8, e tutta la riccia accade anche con FT8, vabbè, dai, comunque pure appena è possibile gliele faccio. Grazie per avermi dato i saluti di Antonio, tu quando lo vedi saluterò sempre perché è un grandissimo amico, una grandissima persona, è una persona soprattutto molto, molto educata che a me piace. Ci sentiamo dopo, il cambio per Giulio. Ciao Claudio. Ciao, no, chi sei? Marco Claudio, è qua, devo stare aiutando a mamma a fare una cosa, quindi ci sono e non ci sono. Mi è entrato ben sentito. Non l'avevo manco riconosciuto con questa voce da orco che c'hai. Ciao Marco. Allora, c'ho i postumi un po' da raffreddore. Poi sto usando quel microfono nuovo sull'Intec HR5005. Non devo lasciare il minimo perché se non fischia l'apparato. Sono contento che mi faccia una voce un po' più legna, dai, sono contento. No, la voce è bella, però sinceramente c'è troppi bassi e mi piaceva più sul 3009, capito? Comunque va bene anche qua. Fate girare la ruota, io rimango in QRX che sto compilando della roba che mi serve domani mattina. Dai, riprendete, a dopo. A dopo, cla. Ok. Marco, è troppo rimbombante quella voce. Abbassa un po'. Sì, almeno di così, forse è meglio che mi allontani, allora guarda, se parlo così è rimbombante. Forse devo parlare lontano, ecco, così sono un palmo dal mic. Contate che io ho la voce un po' cupa perché ho il naso chiuso. C'ho ancora. Sì, il naso è mezzo intasato, quindi è tutto. E capa, ma poco fa era tutto bu, capito, sono rimbombante. Anche in FM stavi uscendo male perché era troppo rimbombante, non si capiva un cavolo. Sì, così mi ricordo, sento, nella sua parlante sento una specie di vabbè, e alla fine ecco perché io poi mi burio, metto il mic normale, esco bene, senza problemi di distanza, di timbriche, il mic normale è sempre migliore alla fine. E io perché cosa ti credi che stia usando? Cazzo, credo che era la prolunga dell'altro microfono, gli ho dato la prolunga delle MV+4 pure, dimmi tu. E adesso sono io, senza microfono. Perché non arriva che c'è il cavo troppo corto. Sono tornato. K Giulio. Ascolta, ditemi se c'è l'eco, perché non l'ho mai provato. Vediamo un po', c'è così l'eco? Sì che c'è. Ok, allora lo sa, così va bene. E ditemi se così c'è le bip. Negativo. L'eco è tipo questo. 1, 2, 3, prova leggero. No, adesso, aspetta. No. Le bip. Questo è regolato come quello del 2009. Ecco, adesso c'è l'eco, sì, me lo sta segnando qua. Il display me lo sta segnando. Vediamo. Oh. Così no, il bip non sono riuscito a inserirlo, vabbè, lo fa niente, dai, preghiamoci, non mi interessa. Così. Adesso l'ho abbassato, anzi l'ho spento l'eco, così è spento, vai. E cappa, così è spento. Va bene, dai, comunque. Adesso l'ho provato, non l'avevo mai provato, dai. E cappa. Ma adesso non mi ricordo come si metteva il bip, forse devi entrare nel menu e mettere on. Sì, infatti, funk, Roger Bip, poi qualcosa del genere, vediamo un po' se riesco a prenderlo, aspetta, lo faccio un attimo. E cappa. Ecco qua, adesso ci dovrebbe essere, vai. No, negativo. Sicuro? Sicurissimo. Allora devo anche aumentare, così è, perché adesso? Ma cosa? Il bip, non c'è il bip. non lo so come si mette, così dovrebbe essere. Sì, adesso c'è. Adesso c'era però. Sì signore, adesso c'è. Ah, ho capito come si fa, dai, lo tolgo. Cappa. L'ho tolto, dai, no, non mi tradisce, era solo per provare, non me ne ha nulla. Va bene così, dai, tanto, di nuovo un watt, io sono passato con un watt di potenza e non di più. E arrivi bene ugualmente, non c'è problema. Va bene, dai, e ancora non è che l'ho sperimentato tutto questo baracchino, però diciamo che bene o male ho capito come mi sto leggendo l'alimentazione, 12 volt sto dando solamente, non 13,8 ma solamente 12 volt. Il mio più di 2 non scendeva, di 2 watt, forse perché lo alimentavo di più. Sarà così, non so, probabilmente è così, non te lo so dire, Natale. Va bene, comunque, già va bene lo stesso. Tanto funziona da 10,5 fino a 16 volt, questo, perlomeno così c'è scritto nel libretto. Il K già va bene, non c'è problema, per Sassari ce n'è in abbondanza. È meglio così. Marco? Si è spostato un attimo. Ok. Allora Natali, tutto bene? Sì, tutto bene. Ho risolto il TVI di quella persona che la figlia mi ha fatto entrare e non disturbo più. Ok, me l'avevi detto, meno male che sono diventati un pochino più intelligenti. Non è possibile che le persone debbano essere alle volte talmente ottuse da non capire quello che le dice magari qualcuno più competente, più esperto. Vabbè, comunque è andata bene, dai, meglio così, sono contento. Mi dava fastidio, c'ha 95 anni quel signore, mi dava fastidio disturbarlo, capito? E meno male che la moglie, che la figlia, voglio dire, mi ha fatto entrare, perché se era stato per lui non ci sarei mai entrato, perché lui diceva che io non dovevo parlare, capito? Io diritti non ne avevo. Vabbè, dai, è comprensibile, una persona di quell'età, però comunque avete considerato che la figlia ha capito la situazione, l'ha convinto, è meglio così. Va bene così, con Natali, va benissimo così, sono contento sia per te che per lui, poverino, perché non era giusto nemmeno che una persona di quell'età si dovesse privare di quello che è di suo diritto. Lo disturbavo anche con questa antenna che ho messo, che non disturba, però a lui lo disturbava perché c'aveva l'impianto TV messo male, capito? E allora abbiamo dovuto metterci mano. È meglio così, dai, è meglio così, meno male che poi alla fine si è risolto il tutto, così va bene, no? Sono contento quando le persone incominciano a ragionare con la testa, o meglio con convinzione di quello che uno le dice senza nessun interesse da parte di nessuno. Va bene così. E infatti adesso giustamente se ne sarà reso conto, no? Che si guarda la televisione nonostante che io parli. Suppongo di sì, nonostante l'età sicuramente avrà capito che era in errore lui prima che poi ha sbagliato inizialmente. Vabbè, comunque va bene così, d'altronde una persona di 95 anni non è che gli puoi cambiare la testa così da un momento all'altro, ci vuole sempre una persona più giovane, familiare naturalmente, che lo convinca, e così è stato, va bene così. Infatti. Ok, mi dispiace solo che ho dovuto dare tutto quanto, perché non si sa mai che qua c'è gente cattiva, e quindi mi è rimasto solo questo omologato qua e no, non c'ho più nulla. Un peccato, vabbè. Ok, hai fatto bene, Natali, ma va bene così, no? Non c'è necessità, cosa ce ne frega di avere di più? No, non ci interessa, dai, andiamo così col baracchino omologato e ciccia, con pochissimi bratti, 1, 2, 3, 4, non di più, e dunque va bene così, che cosa ce ne frega del resto? Sì, era per ascoltare che ce l'avevo l'altra cosa, ma ho dovuto dare tutto perché sennò non si sa mai che vengono. Mi hanno messo nel mirino, qua c'è gente cattiva, se mi hanno chiamato pure i vigili del fuoco, perché dice che oscillava troppo l'antenna. Cattiveria c'è un po' dappertutto, lo sappiamo, non c'è da meravigliarsi, però tutto sommato hai fatto bene, dai, hai fatto bene, così almeno sei tranquillo ed è giusto essere tranquilli e soprattutto confidare sempre in pace con tutto il mondo. Sì, infatti, va bene. Non so se c'è altra gente qua, c'era Pomponio, boh, non so se c'è, Marco c'era, avanti chi vuole entrare. Sì, ho accompagnato mamma in camera di nuovo, io adesso vado in cucina, inizio a fare qualcosa per stasera, se no a fare tutto all'ultimo momento mi passa la voglia. Cappa. Adesso ho messo i watt come se fossero 4, vabbè, sono sempre alza bassa, alla fine non ha senso, cioè tanto vale essere la manetta, è che sta scaldando questo apparato in sale. Va bene, vado in cucina, ciao Giulio, Pomponio, Claudio, Natalino, chi altri c'era? Boh, vabbè, io faccio bianco e mi dedico al fornello, ok? A dopo, se ci sentiamo, siamo in altre occasioni. Ciao a tutti, ciao. Vai Giulio. Ok Marco, sì, infatti, con un vatio non scade nemmeno, io ho la mano sopra anche, sto controllando, ma è meno di tiepido, ti puoi immaginare, con un vatio chiaramente, per poi ce ne sarei accorto anche dal segnale, non è che puoi avere più di tanto, ma va più che bene, interessante ascoltarti. A proposito, tu stai usando quello adesso come mio? Aspetta che lo rimetto al minimo. Aspetta che abbasso qui. Tu sei 9 spaccato lo smitter a LED, lì? Guarda, già è importante molto a parlare. Qui la barra è leggermente, ma poco più del 9. Per cui non so cosa dirti, diciamo che si equivale, dai, il segnale si equivale, no, non c'è problema Marco, va benissimo così. Va bene, dai, buon proseguimento di qua, io vado ai fornelli, ciao a tutti, ciao, buona Natalia. Cappa, ciao Marco, dai, buon continuo con i fornelli, ne approfitto per salutare tutti, anche quelli che ascoltano, e faccio QRT anch'io, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ok, ciao Natalia, allora ci sentiamo alle prossime, dai, tante saluti a Concetta, ci sentiamo, ciao Marco, buon pranzo, buone faccende in cucina, quello che devi fare, ci sentiamo alle prossime, ciao Claudio, se sei ancora all'ascolto, chiudo anch'io, dai, vado a guardarmi la televisione, ero tutta la sera al computer così, e allo serio, e adesso me ne vado alla televisione, ok, ciao a tutti, chiudo. Ciao, ciao Giulio, ciao, alle prossime. Questa radio, Claudio, qual è? Questo è l'FT920. Caspita che differenza, radio subito, molto acuta, la differenza è l'altra, cioè si sente che è cambiato radio, vedi, così io me la accorgo, io che poi questo periodo che si è raffreddato, le orecchie foderate di prosciutto, nel vero senso della parola, con questa è proprio diversa, più toni alti, medio alti. Sì, beh, questa c'ha l'M100, quindi è fatta per l'SSMI, per la M, la uso poco, ma esce abbastanza bene, poi mi piace molto la ricezione, non so se Giulio mi sta ascoltando bene, ma comunque mi hanno detto che va bene, si può usare. Sì, nessun problema, va bene, stacco, allora, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Proprio come diciamo, come piace a me, dai, apprezzo molto questo genere di radio io, tu lo sai, no? Sono tirato altre volte, va benissimo Claudio, va bene, chiudo adesso definitivamente, dai, ciao ciao, riprendi. Ciao ciao, no, ma l'avevi già sentita, questa è l'FT920 della IAESU, quella KF grande, tra l'altro è digitale di SP, quindi insomma, non è nata per la M, ma si fa sentire anche molto. ciao, buona serata a tutti, alle prossime. Qualcuno all'ascolto sul canale 10? Qualcuno all'ascolto sul canale 10? Qualcuno all'ascolto sul canale 10? Chi è? Io. Buongiorno. Ciao Antonè. Ciao, bello bene, come va? Tutto bene? Più o meno, dai. Sta finendo una leggera brezza. Grazie, se no per uscire il gabbo, per carità. Leggera? Magari è stato leggero. Ogni tanto abbiamo una passata qua di vento forte. Nulla. Beh, guarda, qua non ti dico, anche se è tutto aperto, però... Va bene, almeno gira un po' l'aria in casa, ragazzi, è un forno. Ah, quello sì, è un forno, sì. Ok. È un forno, sì, un forno, purtroppo così. Ci dobbiamo tenere il caldo questi giorni adesso. No, ieri era veramente terrificante. Cioè, non girava, non si muoveva foglia, proprio no, neanche un alito di vento, neanche mezzo. Oggi almeno un po' d'arietta, dai, a mitigare chissà cosa. E si sta decisamente meglio. Poi vabbè, quando arriva ce lo teniamo, se vuoi ti dica. Quando arriva si comincia di notte, che alle 1:30, alle 2, quasi le 2 era. Sotto uscito fuori che sentivo blon blon blon blon blon, stava ballando il pezzo di ferro dove avevo agganciato la canna da pesca, immaginati che pesante quello lì. Eppure stava facendo oscillare perché ci avevo messo un bell'ore chiuso. Ah ecco, quindi facciamo un po' la vela. E ti faceva sbattere questa cosa qua. E anche le tapparelle addirittura si muovevano, capito? Che avevo lasciato la finestra aperta per entrare un po' d'aria. Prima stava bene, poi dopodiché è cominciato questo vento forte. Sembrava un tipo quel vento che è acceso una sera. Tipo, come ti posso dire, tipo tornato, una cosa del genere. Ah, ho capito. Sì, quale folata di vento improvvise. Non si sono le decine. Oh, yeah. Aspetta, e guardo. Allora, vento da ovest e sud-ovest. Debole, moderato. No, sto guardando la pagina del meteo. I gradi sono scesi, manco male. 24-25, ieri erano 10 in più. Qua 39 e qualcosa in più ne ha segnato, sotto Casaria alle 2. Grazie. Un microonde, oh yeah. Non si è sentito nessuno? Sì, un po', sarà forse una mezz'oretta, io mi sono spostato, che stavo facendo la roba, mi ha chiamato Simone. Penso tre quarti d'ora, una mezz'oretta, c'era Claudio, poi c'era Marco, Giulio. Poi non so se abbiamo chiuso o meno. Ho capito, magari sono andati a mangiarsi qualcosa. Oh yeah. Sì, poco fa ho acceso un attimino e ho sentito, mi è sembrato sentire la voce di Marco, poi mi sono spostato a mangiare qualcosa e niente, non sono entrato. C'era questa voce da orco, con questo microfono, questa radio diversa, infatti ho stentato a credere che fosse lui, ma poi ho capito che era lui, dai. C'è un microfono di una parica KF, sembra, da come esce. Tutto amplificato, voce grossa, la mascola proprio. Ehi, infatti io ho detto, avuto a prima chita, non sono riuscito a identificarlo. Ui. Che noia, che barba. Che barba, che noia. Ui. Oggi, stamattina c'erano i tedeschi in FM, cazzo, sembravano qua dietro. Oh yeah, sto ascoltando, cazzo, c'ho certi segnali, cazzo, che sono assurdi. Sì, come ti stavo dicendo, stamattina c'erano i tedeschi che stavano arrivando forte, sembravano qua dietro, cazzo. Non so qua, no. Sono dall'altra parte. C'è un segnale in fondo a scala qua. Capito. Sono 9 su 10 e 11. Chissà sul 5-5-5, vabbè, non ho controllato, quindi non ci sono passato. Ma quando ieri avanti ieri era un burotto, non si occupa di nulla proprio. Poco fa c'era sul canale 20 in FM, era pieno di Budapest, c'era poi la Romania, poi un tedesco, non se ne capiva nulla. Tutta montonata, grande così. Cazzo, non ci si sente, allora. Oh yeah. No, adesso mi sembra di capire che si è abbassata un po', dai. Si è abbassata appena appena, perché se non è oscillante, può sale, può scendere, non si capisce nulla. Quando è così, cazzo, che è un andamento molto corto, cazzo, no. È proprio vero. Quindi non ti dà neanche il tempo di provare a collegare, che proprio sparisce. Ah, vedo qui. È oscillante, perché altro. Quello è il problema, capito? C'è un sacco di PSB. C'è un arco molto corto, capito? Quindi come entra sparisce subito. Non è che dura, capito? Quel tanto necessario. E già lo so. Abbiamo contattato di quello che abbiamo in propagazione. Ah no. Vediamo se ci sono le orecchiette pelose di Marco all'ascolto. Marco, Gemagnelli? Cosa hai preparato per pranzo? Fra poco ero in cena. Mi ha detto, Simona, dice, preparami il panino per la cena. Ha detto, tu sei matta, gli ho detto, sono le 6 di sera. Ha detto, alle 7 e mezzo, 8 ore tu mangi. Ce la faccio, ti ho preparato alle 6 e mezzo. Con questo caldo, va, già mi spezzo l'appetito. Non ti venga a mangiare. Guarda, io ho mangiato qualcosa poco fa, proprio perché non... mi si è aperto lo stomaco giusto poco fa. E niente. D'estate... D'estate mi fa questa cosa qua. E quindi mi sono mangiato un'insalata poco fa. E adesso sono tranquillo. Ah, io mi sono bevuto una birra di quelle a limone. Fresca. E mi sta risettando. Ci ho provato una volta a berla con la birra di Bacai, dai. No, in confronto a quella verde già è buona, non ti preoccupare, quella verde sembra stordita. Quando bevi quella verde, cazzo, ti senti tutto strano, nevrotico, eccetera, eccetera. Quindi sembra stordita tutta quella roba di Rospi. Sto bevendo quella limone io quando la prendo. Me la metto in fresco, ne bevo una pranzo, una cena, anzi una prima di pranzo e una prima di cena. E poi pranzo e cena normalmente. L'ho assaggiato una volta, ci mollata subito. Cosa volevo dirti? Mi capita qua la Cobec a Santa Maria che ci sono le offerte a seconda di quello che c'è, mi scelgo, capito? Adesso c'è il giro buono della Bavaria o Bavaria, come ti si chiama, che è a buon prezzo, è 89 centesimi la bottiglia, e adesso un paio di bottigliette ci stanno bene, là messe in fresco, e poi più tardi ce le beviamo. Ah beh, quello sì. No, io ho pigliato quelle latine così, quelle a limone, avevo una pezza, una pennellice e basta. Poi sto bevendo acqua, al litro sto bevendo. Vabbè, a meno che non mi chiama qualcuno, mi vieta giù, mi bevo l'inchilusa dal bar direttamente. Già ci sta, già ci scende, anche se c'è 39 gradi, ci ho messo, quanti posso dire, 10 minuti, 4 ore a svuotarla. Stava già cominciando a scaldare. Ah no, in questo caso si scalda subito. No, ma credo che l'inchilusa non riesco più a berla. Ma me ne hanno fatto un bicchiere l'altra sera, e giusto per non essere scortese, ma l'ho bevuta, il secondo l'ho agito, no, non li dico. No, è proprio... fa subito acidità in stomaco. Non so per quale motivo, ma... cioè, ti ripeto, giusto per essere cortese, se no avevi detto l'obiettiva e... e non mi interessa. No, io già la bevo di chiusa. Già mi piacciono bene. Non era buttare, sapete. Non era buttare, già è buona come birra. Quella che mi piace è la Peroni, mamma mia. E l'Heineken che proprio non posso soffrire. Non riesco a farcela scendere. No, ma Peroni e Dreba, caridai. Se ne vado i vasi, no. Ho provato a prendere un paio di bottiglie, quando qualche mese fa che c'erano in offerta, infatti c'era lo scaffale pieno, non si ricaricava nessuno, allora le hanno messe in offerta, allora lo scaffale piano piano si è svuotato, ma non assai, no? No, quelli lì non vanno, proprio si vede che hanno poco gradimento. Te ne accorgi quando lo mettono in offerta, penso che facci tutto subito. A parte lo scaffale, poi c'è la pedana l'ho preso sopra. Quando vedi che in giro un paio di giorni non ci sono più casse, vuol dire che ti accorgi qual è il trend, no? Ah, quello sì, io lo so anch'io. C'era un periodo quando c'era il lockdown, sparivano tutte le latine verdi, sparivano. Invece quelle gialle non le toccava nessuno, allora andavo a prendere dopo quelle gialle io. Aiuto. Prima c'erano le grandi, poi dopo due giorni sono sparite le piccole. E caricava la cassa, capito? Perché non si poteva uscire quel periodo lì e quindi cosa faccio? Mi stava tutto già da bere in casa. Già me lo ricordo. Andavano a fare la spesa, la gente con i carrellini, cazzo, con due o tre cazzoni di lattine di villa, uscendo l'Eurospin lì alla gonza. Tutto saliva. Anche vino, ti posso dire, crema whisky, di tutto si compravano. O di sventiare in casa. Si mettevano d'accordo tra quattro, capito? Amici, poi andava a bar, si comprava la roba e si ubriacavano in casa. Ah no? Già me lo ricordo. Le provviste. Se continua a mettere il prezzo così della roba verrà da bene, vedrai la scena che fa la gente. Qua al supermercato il circolo non ci va più, e tantomeno al bar a bere. Cioè la birra ormai costa 3 euro mica al bar. 2,50 al circolo. Quindi se continua a salire uno non ci va più per avere una birra 4 o 5 euro. Se rimane a casa, va al supermercato, se la compra io e se la porta a casa, una cassa di birra, se la beve piano piano. Magari invita qualche amico, fa un bel pranzo, tanto siamo d'estate, una bella cena e ci divertono. Meglio in casa che al bar. Almeno al bar non ti deve tuffare, magari ti arriva qualcuno, dopo l'orario sono già lo sei, dopo le 8 arrivano quelli che sono già incarinati. Quindi per non stare incasinati la vita, te la vedi direttamente a casa, ti senti a zuffi, ti azzuffi col letto. In alcuni bar hanno già aumentato, 3,50 in alcuni bar, quindi gli aumenti stanno arrivando anche lì. L'ho constatato quando forse sabato scorso. Mi sono avvicinato al caffè degli artisti, sono entrato a prendere una birra, no, è aumentata, adesso. E quindi 3,50 adesso. Tu magari ci avevi 6 euro, giusto, ci ascolta, dammi una, te la prendi in culo. Ci sono rimasto, sai, preso la sprovvista. No, 3 euro solo di chiusa. Tubor, Bex, Heineken, Vastain, tutti 3,50. Qualche settimana prima era 3 euro, quindi poi vediamo il riscontro col pubblico come sarà. Allora, qua di chiusa è 3 euro, anche là, il resto. Però né che là, la Sonia viene 3,50 la bottiglia, meno male che quella non mi piace, quindi vado direttamente alla Kuwait, ne prendo una con 3 euro. A meno che non mi faccia una bella passeggiata a piedi, vado da Nicco, scendo a piedi e salgo verso le 7:30, le 8:10 quando non c'è il conto. E così risparmio, 2,50 e giù cappuccio al circolo. Sì, vabbè, anche lì lo stesso. Perché alcune te le danno 2,50, altre te le danno 3, poi a parte qualche circoletto che c'è magari l'angolino con qualche birra speciale, che giustamente non la paghi 3 euro, birre, proprio quelle birre veramente buone iniziano già a costare un po', dai. E niente, per adesso è così. Sì, sì, quello sì. Allora io già mi... ogni tanto scendo giù a piedi e ho visto ieri alle 6 c'era il coso, c'era il controllore, col cazzo ci salgo, ho detto in tram, anche se c'è un biglietto, perché ti sono preso il biglietto, me ne risparmio, dato che l'ho pagato, quanto mi sembra, 1,30 euro, una cosa del genere. Quando vado da Nicco, che mi dice che ci sono dei contanti, per capito, almeno passo un paio d'ore, ne bevo due con 5 euro, poi meglio la esame, sono le 8:10, 8:30, quello che è, e sa cosa si fa pagare il biglietto, se la biglietto è qua. Bene, Meda, senti un po', ma stanno girando già con la body cam, con la telecamerina addosso del controllore. Eia, quindi non fuggino. Forse da qualche settimana, non mi ricordo dove ho letto la sta roba qua, forse nella pagina web della nuova, mi pare, una cosa del genere, la body cam. Vabbè, l'avevano già pubblicizzata piena di anticorpi su internet, la storia della TP. Vabbè. Aspetta un attimo, Gianni. Eccomi. Ah, già, chi sei già? Sono ritratto. Sono qua. Via. Tanto non devo fare nulla, sono già andato in casa. Via. A meno che non riesco a prendere una boccata d'aria dopo. Per adesso sono qua. E ciccia, e non si può fare nulla. Francesi? Francesi, per pagazione. Cazzo, arriva la forte, cazzo, bello è quello. Ma qua sono 27 o su altre frequenze? No, in PM adesso, sul canale 10. Canale 10, PMR. Vabbè, non mi ha mai esaltato la cosa, li avevamo presi qualche anno fa per lavoro, i portatilini, quelli piccoli, avevamo preso l'offerta quelli da 5 Baofeng, ma li avevamo presi per lavoro, da usare in campagna, ci andavano bene, dai. Che funziona, tu figurati che c'è la paga alla Corsica, c'è una bella distanza, mi. Eh beh, noi bucciai giocano. Sì, preparazione, sento. Ma forse, cazzo. Facciamo la ragazza parlando, ma una bella voce c'aveva. Dammi 30 secondi, volevo fare una cosa. Eccomi, arrivato. E anche Natalino c'è l'ascolto. Bubu. Antonè, sei rientrato? Oi. di me di nuovo, eh. Silenzio, parla Agnesi. Ci sono due hamburger di cavallo che fanno il freddo. Ma stai cenando o merendando? Sto cenando. Ok, da. Ah, ok, vabbè, dai, buon appetito allora. 9:40, super. Buon appetito. Qualcuno all'ascolto?